Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati a Magazine 24. Magazine 24 che ogni sabato, ogni domenica va a cercare gli articoli interessanti o curiosi o ricorrenti nei periodici italiani e stranieri. C'è una notizia che ha avuto fortuna nei periodici. La notizia naturalmente è stata data prima dai quotidiani, dalle radio, dalle televisioni, ma ha in qualche modo stimolato la fantasia dei commentatori dei periodici. Si tratta di questo: è una iniziativa antifumo presa da un preside, il preside dell'Istituto Tecnico Commerciale di Terni, che ha deciso di assegnare voti più alti in pagella a fine anno per gli studenti che hanno smesso di fumare. Il periodo è quello giusto, mi pare le scuole si stanno concludendo un po' in tutta Italia, ci si avvia alla fase degli esami di fine corso. Si chiede ad esempio Famiglia Cristiana, nella rubrica che è curata da Antonio San Francesco, se questo tipo di decisione, dare dei voti più alti agli studenti che smettono di fumare, si intende quelli degli ultimi anni, o almeno così ci auguriamo che sempre sia, sia un'iniziativa giusta oppure sbagliata, nel senso che inutile dal punto di vista, che sia un'iniziativa inutile dal punto di vista educativo. Mette a confronto due pareri, Gustavo Pietropoli Charmé, che è uno psichiatra, nonché un docente alla Bicocca di Milano, e Giorgio Rembado, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. I due pareri sono effettivamente abbastanza opposti, perché Pietropoli Charmé, cioè lo psichiatra, dice: usare come parametro per misurare la maturazione scolastica dei ragazzi anche il grado di indipendenza dal fumo o dall'alcol mi sembra senza dubbio un esperimento molto positivo. Gli apprendimenti sono sempre al servizio della persona. A maggior ragione, continua Pietropoli Charmé, questo vale quando si parla di corretta educazione alla salute, si cerca di far capire ai ragazzi i rischi provocati dal tabacco e da altre sostanze ancor più pericolose. Per questi motivi, quindi, la conclusione dello psichiatra, del professor Charmé, è di sostanziale accordo con l'iniziativa. Il voto di condotta non mi piace dal punto di vista educativo, ritengo più giusto valutare il progresso compiuto dalla persona nei suoi diversi aspetti comportamentali e associare anche questa capacità, tra cui appunto gli aspetti comportamentali rientra senz'altro la dipendenza dal tabacco, associandolo come in questo caso anche al profitto. Prende invece più le distanze Giorgio Rembado, appunto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che pur riconoscendo appunto il legame tra la capacità di non fumare, di smettere di fumare, quindi di adottare un comportamento utile e virtuoso per la propria salute, e poi il profitto scolastico possa esserci un legame nel senso della maturazione, però dice: l'incentivo escogitato mi lascia un po' perplesso. Ogni valutazione, spiega, si basa su elementi oggettivi, quindi per questo motivo sarebbe stato preferibile che la rinuncia al fumo fosse stata valutata all'interno, che so, del voto di condotta. Rinunciare al fumo dopo aver fatto sui banchi di scuola un corso di educazione alla salute richiede capacità di autodeterminazione, dominio di sé, personalità, tutte cose che hanno a che fare con il comportamento, ma con il comportamento più che con il profitto. Personalmente, quindi, è il consiglio di Rembado, avrei dato un peso particolare al voto in condotta di quegli studenti che hanno smesso di fumare. Ovviamente questo tipo di valutazione, questo criterio di valutazione, andava annunciato e spiegato prima a inizio anno per assicurare in sede di valutazione finale la massima trasparenza e correttezza possibile. Questo è un ammonimento da chi evidentemente nella scuola vive tutti i giorni e sa che poi le lamentele, talvolta anche le liti che arrivano anche in tribunale, sono all'ordine del giorno. Ma sulla questione poi in realtà torna anche un'altra rubrica, quella di Angelo Panebianco su 7, il supplemento del Corriere della Sera che avete trovato da giovedì, che trovate da giovedì in edicola. Anche Panebianco ricorda la notizia, quella titolava La Stampa in una pagina interna: smetti di fumare, ti alziamo i voti. L'articolo riferiva dell'iniziativa del preside di una scuola di Terni, mosso dalla lodevole intenzione di fare qualcosa per la salute dei suoi ragazzi troppo dediti alla sigaretta. Quel preside ha garantito voti più alti agli studenti disposti a rinunciare al fumo. Ha fatto le cose seriamente, ha organizzato corsi con esperti, ha fatto controllare che i ragazzi che si erano impegnati a smettere di fumare lo avessero poi fatto davvero. Un dirigente scolastico illuminato, secondo l'estensore dell'articolo. Ma Panebianco invece è di diverso parere, e vi leggo perché. Dice: non so se quel preside sia davvero illuminato, ma un merito lo ha. Ha tolto il velo di ipocrisia che da troppo tempo circonda la questione delle valutazioni scolastiche. In questo Panebianco sembra perfettamente nel solco, appunto, del preside che è stato sentito invece da Famiglia Cristiana. Sappiamo, continua Panebianco, che i voti significano ben poco e che fra le valutazioni scolastiche e l'effettiva preparazione dei ragazzi non c'è alcun rapporto automatico. Diciamo che non va per il sottile il commentatore. Se così non fosse, per esempio, sarebbe impossibile ciò che da tanto tempo accade e che ha finito ormai per indurre a assuefazione, non fa più scandalo. Mi riferisco al fatto che all'università arrivino tanti giovani che non sanno scrivere in italiano, che hanno difficoltà con semplici operazioni aritmetiche o che ignorano quasi tutto di storia, geografia, eccetera. Il preside di Terni quindi ha semplicemente preso atto della situazione. Poiché i voti allo stato attuale significano poco o nulla, tanto vale servirsene per opere di bene. Se i voti fossero ancora una cosa seria, un'idea simile non gli sarebbe mai venuta in mente. Dopo questo attacco decisamente poco conciliante, poi precisa un po' la sua posizione nei confronti dell'evento. Non voglio polemizzare con quel preside, non è colpa sua se le valutazioni scolastiche hanno perso credibilità, né è colpa sua il fatto che da anni si tenti di mascherare la declinante capacità di tante scuole di svolgere bene i loro compiti istituzionali. Però c'è un però. Come docente sono tenuto a valutare la preparazione dei ragazzi disinteressandomi delle loro abitudini private. Il mio solo interesse è che arrivino davanti a me studenti preparati con una buona istruzione. Forse è il caso di rivedere, la conclusione di Panebianco, le valutazioni scolastiche al fine di ridurre la forbice che ormai è davvero troppo ampia tra l'apparenza e la realtà. Restiamo un po' in territorio scolastico, caliamo di qualche anno rispetto a questi studenti che prendono l'abitudine di fumare. Scendiamo, diciamo, agli ultimissimi anni elementari e alle medie, perché sul Famiglia Cristiana si parla dell'utilizzo della paghetta o mancetta, come la si vuol chiamare, in uno speciale che è curato da tre colleghe, Maria Gallelli, Renata Maderna e Orsola Vetri. Ci si chiede qual è, appunto, sia la diffusione di questa mancetta, che rappresenta un po' un momento di autonomia, un esperimento di autonomia, una prima educazione economica dei figli, quanto è diffusa e come bisogna comportarsi perché poi i figli ne facciano buon uso, sia dal punto di vista dei soldi in sé, sia soprattutto da quello educativo. Allora scopriamo da queste pagine di Famiglia Cristiana che il 31% dei ragazzi tra 6 e i 17 anni riceve regolarmente una paghetta, il 35% delle famiglie di dirigenti, imprenditori e liberi professionisti dà la mancia ai figli, lo fa solo il 28,8% delle famiglie operaie. C'è una certa distanza, anche se sembrano non così tanti punti percentuali, quindi l'abitudine è, diciamo, abbastanza diffusa in tutta Italia. C'è una distanza maggiore invece tra le ragazze, le bambine e le ragazze e i bambini ragazzi, perché il 57,2% dei maschi tra 14 e 17 anni può contare su una somma fissa, quindi riceve questa mancetta o paghetta. Solo il 48% delle ragazze, siamo quasi 10 punti sotto, delle ragazze nella medesima fascia di età, quindi 14-17, ha la stessa possibilità, cioè sono di meno le ragazze che ricevono bevono una mancetta rispetto ai ragazzi. Questa è una abitudine che poi viene anche esplorata un pochino nell'articolo che riporta Famiglia Cristiana. Mi sembra importante segnalarvi quanto consiglia poi lo psicologo a proposito appunto dell'uso della paghetta. Renata Maderna ha sentito Fabrizio Fantoni, psicologo e psicoterapeuta, ha anche tre figli, questo può non essere un dettaglio irrilevante. Dice: non confondiamo il denaro e i beni che con esso si acquistano con il bene affettivo che genitori e figli si devono scambiare. Quindi vietate le confusioni, alcuni genitori che si sentono in colpa per i lunghi tempi di assenza da casa tendono a compensare i figli per la mancanza di tempo. Quindi vietato collegare amore e denaro, però anche la possibilità con gli acquisti. Cosa vuol dire? Vuol dire che occorre educare i figli fin da piccoli a un senso della misura che consideri le spese non solo in funzione alle possibilità economiche. Quindi da tutto questo il consiglio sintetizzabile in estremi termini dello psicoterapeuta è: siate genitori, non siate un bancomat. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stiamo parlando di denaro perché abbiamo appena segnalato da Famiglia Cristiana quali sono i comportamenti corretti da tenere nel dare la mancia, la paghetta, la mancetta ai figli, quindi utilizzando questo strumento in modo utile dal punto di vista educativo soprattutto. Allora restiamo un po' in area economica. Da Vanity Fair il sondaggio di Nando Pagnoncelli: vacanze in crisi. Speriamo che si sbagli. Però così avverte Pagnoncelli, che ha naturalmente eseguito un sondaggio su un po' di nostri connazionali, e risulta che un italiano su due, uno su due, rivedrà al risparmio i piani per le ferie, e non solo, tra l'altro ammonisce Vanity Fair. Dicono le cifre qui che il 56% degli intervistati ha detto: starò a casa, farò solo via qualche fine settimana, starò via comunque meno giorni, risparmierò sulla sistemazione, rinuncio a fare viaggi all'estero per stare in Italia. Quindi tutte scelte, diciamo, a risparmiare per il 56% delle risposte. Il 35% più categoricamente ha detto: no, almeno sulle ferie non risparmio. 35%, quindi un italiano su tre abbondante ha risposto che non è proprio il caso di tagliare sui soldi da investire nelle ferie. È stato chiesto anche su che cosa pensate di risparmiare nei prossimi mesi. La prima citazione, cioè la prima risposta, la prima voce: ristoranti, pizzerie, cene fuori casa. Poi l'abbigliamento. Per tutte e due queste risposte hanno totalizzato il 18% delle preferenze. E poi a scendere: i cinema l'11%, i consumi elettronici l'8%, il benessere, qui nel senso di palestra, trattamenti di bellezza. Su libri, giornali e CD solo il 4%, nel 4% dei casi è stata la prima citazione. La cosa naturalmente mi fa un certo piacere, basandosi questo programma anche sulla lettura dei giornali. Questa è appunto l'indicazione di Pagnoncelli che ho tratto da Vanity Fair sui comportamenti economici in vista delle vacanze. Ma sempre di comportamenti economici più di lungo periodo si è parlato molto in questi giorni, perché è stato necessario di nuovo intervenire sulle pensioni. Lo avete sicuramente seguito, letto, discusso grazie a quello che vi abbiamo raccontato su Radio 24, sul Sole 24 Ore, sugli altri giornali, in televisione. L'Espresso si occupa naturalmente di questo tema. Una particolare modifica che è intervenuta, quella cosiddetta della finestra. Ora, per chi non è pratico di queste cose e quindi presumibilmente anche lontano dall'età della pensione, fortunatamente per lui, va specificato che la finestra è il momento in cui si può materialmente uscire dal lavoro, che non coincide però con il compimento esatto o dell'età o degli anni di contributi necessari. Ora, cosa succede? Che nella manovra appena varata dal governo, adesso è in discussione in Parlamento, il perno della stretta è costituito dall'abolizione delle finestre fisse, spiega Paolo Forcellini sull'Espresso. Sono sostituite da una sola finestra scorrevole, qui il termine edilizio, ripeto, non c'entra nulla, parliamo tutte di cose figurate, fuori dal gergo. Chi fino a tutto il 2010 matura i requisiti del pensionamento deve aspettare per l'uscita effettiva tra un minimo di 6 mesi, un massimo di 11 se va in pensione con l'anzianità, cioè non per aver raggiunto il tetto massimo di anni di età anagrafica che invece ha pensione di vecchiaia. Per quella di vecchiaia deve aspettare da 3 mesi a 5 mesi. Dall'anno prossimo tutti potranno andare in pensione solo 12 mesi dopo averne raggiunto i requisiti. Se poi sono lavoratori autonomi, allora l'attesa sarà di 18 mesi. L'intervento del governo fa scomparire le sperequazioni, quindi le disuguaglianze delle finestre fisse, che potevano comportare per due lavoratori con stessa anzianità, ma nati magari uno il 30 giugno e l'altro il 1 luglio, 6 mesi di differenza di attesa. Però l'eliminazione di questa piccola ingiustizia porta con sé un allungamento per tutti dei tempi di pensionamento. Non so quanto sono riuscito a essere chiaro, a farmi capire, però vi posso dire che da domani con il Sole 24 Ore troverete in edicola un libretto, un instant book come si dice, che è proprio dedicato a tutte le novità delle pensioni varate dalla manovra, in arrivo per le correzioni che verranno portate alla manovra. Sono coinvolte appunto non solo le dipendenti pubbliche, ma le novità riguardano, come avete sentito da questa citazione dell'Espresso, tutte le categorie. Lo trovate da domani con il Sole 24 Ore. E poi un confronto che ricavo sempre dall'Espresso sulla l'età pensionabile nei vari paesi. Risulta che vanno più l'età pensionabile più alta, diciamo, in Germania che non in Italia, perché sta a 67 anni l'età del ritiro. In Francia sta a 60, in Italia stiamo a 65 per gli uomini, 60 per le donne, con l'innalzamento ormai deciso dal governo a 65 anni anche per le donne dipendenti pubbliche. L'età media però effettiva di pensionamento, cioè il momento in cui uno davvero se ne va, è un po' diversa dall'età pensionabile. Allora risulta questo, che in Italia l'età media effettiva di pensionamento è a 61 anni e mezzo per gli uomini, a 60 per le donne. In Germania è un pochino superiore, ma di poco, 61 anni e 6 mesi e 59 e 9 per 61,6 per gli uomini, 59,9 per le donne. In Francia è intorno ai 58 anni, quasi 59. Questi i dati che trovate sull'Espresso di questa settimana. Cerchiamo di alleggerire un po' da queste tematiche che sicuramente già sono, come dire, ostiche di loro, e poi quando si tratta anche di aggiungerci delle notizie non buone diventano ancora peggio. Allora ho trovato su Donna Moderna questa settimana un contributo di Nanni Del Becchi che è molto divertente e credo, ahimè, anche molto vero, perché anche i maschi oggi temono la prova costume. È estate, tempo di mare. Qui cosa è successo? Che Nanni Del Becchi è andato a cercare in farmacia una di queste creme miracolose che hanno cominciato a vendere anche mirando molto decisamente al pubblico maschile, per ridurre diciamo certe rotondità indesiderate, poco eleganti, poco estetiche. Ecco, pare che vadano a Aruba, così almeno riferisce Del Becchi dal nostro inviato speciale in farmacia. Una notizia: la crema sciogli pancia per uomo è andata a Aruba, se la volete dovete prenotarla. Sì, perché quelle che un tempo si chiamavano maniglie dell'amore adesso per lui sono le maniglie dell'orrore. E non è solo una questione di vanità, perché l'argomento pare leggero ma poi non lo è affatto. Leggendo l'articolo di Del Becchi, segnala ad esempio una dietologa, Evelina Flacchi, che i suoi pazienti maschi sono in aumento costante, si abbassa sempre di più l'età. Con l'avvicinarsi dell'estate, dice, ricevo molti pazienti uomini sulla quarantina preoccupati di essere in leggero sovrappeso. Devo dire che il maschio è il miglior paziente, perché non gli interessa la dieta del momento, ha una disciplina e una costanza che garantiscono il risultato, quindi sarebbero più affidabili anche delle donne a questo proposito. Ma c'è poi un dermatologo che dice non è solo il desiderio di rendersi più appetibili, di rendersi appetibili a donne più giovani, ma anche nel mondo del lavoro ormai una certa immagine è sempre più importante, quindi avere un aspetto giovanile è utile alla carriera. Questa è l'indicazione, una delle tante indicazioni che si ricavano dall'articolo di Del Becchi, che come vi dicevo parte da un dato leggero, ma poi invece ci dice delle cose più decisamente più importanti, più interessanti. Allora, con questo la nostra puntata si è conclusa. Io ringrazio Pietro Lacorte in regia anche questa mattina, grazie a Margherita Aina e a Vittoria Mussini che hanno preparato insieme a me questo programma. Buona domenica a tutti.